L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e ben ritrovati a una nuova puntata dell'Altro Pianeta, una puntata che non poteva essere altrimenti. Dedichiamo un po' all'analisi del voto da un punto di vista ambientalista. Le urne sono state chiuse ormai, lo spoglio è fatto, la situazione è nota. Ebbene, chi sono gli ambientalisti che sono arrivati in Parlamento? Che messaggio portano? Alle loro spalle avevano un forte richiamo da parte delle associazioni ambientaliste italiane che avevano spedito poco prima delle elezioni un eco telegramma a tutti gli elettori e a tutti i candidati. Un ecotelegramma che era firmato tra gli altri anche dal WWF Italia, e siamo felici quindi di avere qui con noi Gaetano Benedetto, che è direttore delle politiche ambientali WWF Italia. Benedetto, che ne pensa quindi di queste elezioni? A differenza del passato non abbiamo uno schieramento che si richiama esplicitamente a temi ambientali, ciononostante in tutti gli schieramenti diciamo così una componente che esprima una cultura vicina ai temi dell'ambiente risulta presente. Mi pare che l'elemento di novità comunque sia dato dal fatto che abbiamo qualche centinaia di parlamentari totalmente inesperta e soprattutto qualche centinaia di parlamentari che in una qualche maniera durante la campagna elettorale ha espresso temi ambientali, il Movimento 5 Stelle li aveva molto presenti nel proprio programma, ma che evidentemente non è riuscita poi a articolare una proposta in termini di concretezza. Cioè, sappiamo perfettamente che in una situazione economica quale quella in cui viviamo, il tema della copertura finanziaria o il tema di come allineare le competenze istituzionali di un paese così frammentato è determinante per asserire che l'obiettivo possa essere preso. Per cui credo che il grande sforzo sarà quello di aprire un'interlocuzione, mettersi a disposizione, mettere l'esperienza che associazioni come il WWF, ma non solo, hanno acquisito anche nel campo istituzionale su questi temi, per cercare di comprendere quali sono i passaggi che devono essere fatti. I passaggi che devono essere fatti poi sono quelli che insomma abbiamo elencato anche nei nostri documenti interassociativi e negli incontri fatti con tutte le forze politiche durante la campagna elettorale. Adesso in poi le chiedo di dirceli, però volevo così aggiungere una riflessione sul fatto che, come ben sottolineava lei proprio all'inizio, in questa tornata elettorale non c'erano schieramenti che si richiamassero direttamente a temi dell'ambiente, e questo è un po' un'anomalia italiana se guardiamo al panorama europeo perlomeno. Ma dipende un po' come si vede la questione, nel senso che noi crediamo, il WWF ha sempre asserito, che l'errore cardine della politica italiana è quella di considerare l'ambiente come un elemento tematico e non come un approccio trasversale rispetto a tutte le tematiche. Per cui anche in questo senso uno schieramento prettamente ambientalista, se non è uno schieramento che innesca le politiche economiche attraverso l'ambiente, è uno schieramento che sbaglia l'approccio, ed è un po' il tema che ha portato in una qualche maniera anche ai fallimenti dei movimenti politici che si richiamavano all'ambiente. Oggi l'ambiente è la sostenibilità, quindi l'ambiente è l'energia, l'ambiente è la gestione del territorio, l'ambiente è un modello di sviluppo che sicuramente vede nella green economy un passaggio intermedio, ma che deve disegnare in una new economy che ancora non si capisce quale essa sia un futuro per l'umanità. Per cui se da un lato è vero che è un'anomalia italiana, pensiamo ad esempio ai Green in Germania oppure alle componenti verdi in Francia, è anche vero che non di per sé questo è un elemento di negatività, laddove l'ambiente venga assunto dalle forze politiche non come il tassello da coprire. Però questo non mi pare che ci sia molto stato. Non c'è stato, nonostante candidature di prestigio, possiamo anche fare i nomi, penso alla presidente del FAI nella lista Monti, o penso ad esempio alla lista Ingroia che aveva assorbito alcune componenti dei Verdi, la posizione che costoro hanno espresso, pur essendo anche visibile nel programma, pur essendo anche evidenziata bene nel programma, poi entrava addirittura in rotta di collisione con altri con altre parti del programma dello schieramento a cui si erano candidati, per cui gli elementi di coerenza vanno visti nell'insieme e non nella specificità della posizione che il singolo assume o esprime. Questo accade anche perché c'è una miopia dei partiti, una miopia anche di noi magari come elettori, che certe cose non andiamo a vedere se ci sono o non ci sono nei programmi. Il tema culturale riguarda partiti ed elettori, è un tema che riguarda tutta la società, non v'è dubbio che nella società poi la classe politica è particolarmente arretrata rispetto ai temi dell'ambiente. Non abbiamo un Obama che nel momento in cui si insedia alla presidenza degli Stati Uniti apre al tema dell'ambiente come il tema cardine per il futuro. Dopodiché c'è un'ignoranza o una non conoscenza, mettetela come volete, di tutta una classe amministrativa che non legge correttamente, a nostro avviso, tutta l'impostazione comunitaria sui temi dell'ambiente, la sostenibilità della tutela. Detto questo, c'è poi un problema che riguarda il sistema Italia, un problema dove c'è un blocco economico legato a schematicismi del passato, a interessi del passato, che in una qualche maniera condiziona un'evoluzione verso nuovi modelli. Pensiamo a tutto il tema che riguarda le aree industriali, l'Ilva di Taranto è una metafora della difficoltà di superare quello che è un sistema legato a ricatti occupazionali, industrie pesanti ad alto impatto ambientale in una qualche maniera dimostra l'incapacità di andare anche in un contesto industriale, anche in un contesto di ricerca, qual è quello che l'ILVA potrebbe rappresentare, verso situazioni di compatibilità come quelle che ad esempio si sono raggiunte in Austria o in Germania. Per cui c'è un sistema economico refrattario con delle situazioni paradossali che vedono nelle risposte del passato le risposte nuove. Questo è impossibile, penso ad esempio alle politiche che si vorrebbero rilanciare nel campo dell'edilizia, o penso a quelle di cui si parla nel campo delle opere pubbliche, ancora una volta tutte virtuali, perché chiaramente sappiamo che anche lì non ci sono le coperture economiche, e non invece in meccanismi completamente diversi che vedono proprio nella specificità italiana l'elemento di uno sviluppo possibile. È paradossale che il pubblico in Italia sostenga tutto quello su cui c'è una competizione furiosa in termini di mercato globale, e invece abbandoni quello su cui c'è una unicità italiana che è basata appunto sulla nostra storia, la cultura, il paesaggio, le belle arti. Ecco, quindi tornando un po' a quello quando io l'ho interrotta all'inizio, questo è anche quello che fa parte dell'ecotelegramma che fu mandato, cioè puntiamo su quello che sono le nostre specificità e diffondiamo anche il bello che abbiamo. Io vorrei fare un esempio forse che consente anche ai nostri ascoltatori di capire, no? Abbiamo un problema di assetto idrogeologico che è drammatico, abbiamo oltre 5.000 comuni che hanno problemi di rischio idrogeologico, quindi abbiamo problemi di frane, problemi di allagamenti, alluvioni e quant'altro. Come possiamo fare questo, rispondere a questo, affrontare questo? Evidentemente dobbiamo fare degli interventi. Che tipo di interventi? Continuiamo a fare i muraglioni sui fiumi? Continuiamo a fare le opere di cementificazione che hanno caratterizzato l'ingegneria idraulica degli anni passati? Oppure, considerando il fatto che siamo in un sistema dove i cambiamenti climatici rendono impossibili le previsioni di piovosità, e per cui la quantità d'acqua in un tempo molto molto ristretto che cade in un dato luogo, occorre restituire al territorio una flessibilità. E come restituisco la flessibilità? Cioè la capacità di assorbimento della tanta acqua che cade in un breve tempo su un determinato territorio? Attraverso un processo di rinaturalizzazione, di recupero, di restauro ambientale. E se faccio recupero e restauro ambientale, che cosa faccio? Restituisco paesaggio, e quindi restituisco identità, e quindi creo presupposto anche ad esempio per un'agricoltura che è compatibile con il fatto che ad esempio una determinata campagna si allaghi una volta ogni tot anni. E in questo meccanismo non riesco a restaurare un po' un pezzo dell'Italia? È chiaro che questo è un esempio che può essere considerato anche secondario, no? Perché chiaramente noi siamo un paese industriale e dobbiamo rimanere un paese industriale, per cui questi esempi devono essere messi accanto ad altri esempi. Ma un esempio che ci fa capire come ancora non capiamo la strada che deve essere colta. Noi ad esempio, rispetto al fatto di essere un paese industriale, che cosa stiamo facendo? Forse non tutti sanno che in alcuni settori noi siamo leader mondiali. Faccio come esempio il ragionamento sulle cosiddette bioplastiche o sulle ricerche di nuovi materiali. Sulle ricerche di nuovi materiali dove non mettiamo investimenti, dove ad esempio il CNR fa degli studi molto molto molto avanzati, strettamente connessi anche con le nuove energie, noi non riusciamo a dare a questo tipo di ricerca, a questo tipo di prodotti, una prospettiva economica e diventano, come dire, casi di studio quasi da laboratorio. E continuiamo invece con ragionamenti vecchi, basta pensare ad esempio, sempre rimanendo nel settore dell'energia, che siamo riusciti a fare in Italia un pasticcio anche sull'opportunità che le rinnovabili rappresentavano. Senta, per chiudere, visto che proprio abbiamo gli ultimi pochi secondi, le chiedo, questo Parlamento per come lo vede, le dà, diciamo, fiducia? Ma le analisi in questi giorni si sono sprecate. Io faccio parte della scuola che dice di non avere mai paura della democrazia e credo che quindi questa, che è una risposta specchio del Paese, debba essere ancora elaborata. Dire se sia fiducia o no, francamente, è troppo presto. Dico che però è possibile che a un certo punto questo popolo, questo paese, la nostra gente si accorga veramente di stare non a parole ma realmente nel posto più bello del mondo e per cui riesca ad apprezzare il proprio essere legato alla tipologia dell'essere Italia, no? E il WWF chiederà a questo Parlamento un gesto di coraggio, che è quello di mettere l'ambiente tra i valori primari della Costituzione e non solo tra le competenze come attualmente è. Grazie Gaetano Benedetto, direttore politiche ambientali del WWF Italia. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi.